Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, siamo in partenza per la 183esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Oggi è domenica, 1 giugno 2014. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per le selezioni musicali Lorenzo Ranfagni e Giona Vinti. A volo di uccello passiamo in breve rassegna i contenuti della puntata di oggi. La nostra prima rubrica del giorno si intitola Visti da vicino, non mangio mai qualcuno che conosco. È una rubrica attraverso la quale realizziamo incontri con animali visti nella loro individualità, nella loro singolarità e cerchiamo di raccontarvi le loro storie. In questa puntata la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, ha visitato il rifugio Miletta. Particolarmente ricco è il menù della nostra rubrica di attualità Animal House. Ci occupiamo dell'ascesa di alcuni partiti animalisti che in Germania e in Olanda hanno centrato l'obiettivo riuscendo a fare eleggere un loro deputato al Parlamento europeo. Il nostro corrispondente dalla Germania, Thomas Hertel, ci racconterà qualcosa del partito animalista tedesco. Rientriamo dalla Germania nel nostro paese per parlarvi del progetto paginevegan.it, uno spazio dedicato ai professionisti che si sono stufati di essere etici solo nel loro tempo libero e decidono di puntare su mestieri cruelty free. Lorenzo Guadagnucci poi recensirà per noi l'interessante incontro dedicato all'agricoltura cruelty free che si è svolto il mese scorso in occasione del consueto apericena mensile di Restiamo Animali. Per la rubrica di cucina non violenta il pasto gentile, Gabs, il nostro vegan chef a domicilio, ci delizierà con una delle sue ricettine. Quindi prendete carta e penna e preparatevi ad annotare ingredienti e procedimento. In chiusura di puntata, le news a cura di Valentina Reggioli. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Agrate Conturbia, piccolo comune del Piemonte in provincia di Novara. Via Monterosa è l'ultimo tratto di strada asfaltata, poi si svolta in via Cervino e il percorso si fa meno agevole finché la strada si interrompe. Intorno i campi e qualche casa, poi una scritta, poco visibile, e una freccia, Rifugio Miletta. Ecco, arrivati. Non appena si spalancano i cancelli, si viene catapultati in un mondo fiabesco. Un prato infinito e un piccolo ruscello dove convivono liberi e in perfetta simbiosi animali di ogni specie, a dimostrare una volta di più che la barriera interspecifica è solo un archetipo fittizio creato ad uso e consumo dell'uomo. Un comitato di accoglienza unico e festoso, composto da caprette che giocano con i cani, maiali che accorrono per farsi conoscere e per annusare, asini e pony che passeggiano sereni, un piccolo agnellino che cerca di farsi notare tra la folla degli animali e una vitellina intenta a brucare. E poi gatti, colombi e perfino un pappagallo. Come attirati da una calamita, si riuniscono tutti intorno ad Alessandra Motta. Le chiedono coccole, la invitano al gioco, la seguono passo dopo passo. È lei, Alessandra, che insieme ai volontari si prende cura di loro tutti i giorni. Ecco cosa ci ha raccontato. È arrivata qua che era piccolina, aveva 4 mesi, e perché l'hanno trovata nel bosco, l'hanno trovata ferita, l'hanno curata loro, le prime cure le hanno prestate queste persone e poi ce l'hanno portata. E quindi lei vive qua, si è ambientata tranquillamente, potrebbe andare via perché noi abbiamo la recinzione, come vedi, che basta spingerla. Infatti. E lei non, se proprio vive qua felice e serena. Viola, che è la maialetta, sono diventata un scrofa enorme. Lei invece e viene a richiamo proprio. Sì, sì, loro tutti sono molto. Sì. Diciamo che un po' forse la particolarità nostra è di essere riusciti a creare proprio una simbiosi con tutti gli animali, cioè una convivenza. Infatti con convivono tutti, benissimo, cioè sono con noi, con tutti, senza liberamente, perché si autogestiscono, fanno i loro ricoveri notturni, però poi durante tutto il giorno sono liberi. C'è stato un problema una volta, che a raccontarlo, di Matilde quando è arrivata qua era piccolina. Matilde, vi ricordami, è la cinghiala, e io avevo lo stalloncino che è in giro, è là, quello che vedi là, sì, che è un piccolo pony recuperato da un mercato, e lui la perseguitava, non so come mai, non la voleva, ma lei scappava terrorizzata. Quando è cresciuta, è diventata adulta, lei una volta soltanto è andata, me l'ha bucato, che per un pelo me lo ammazza, perché aveva proprio i buchi vicino all'intestino, come per dire adesso insomma hai capito, l'ha fatto una volta e adesso vivono, li vedi che sono insieme. Quella è un po' la nostra missione, cioè quello in cui tutti noi crediamo, a parte il soccorso proprio diretto, cioè diciamo la vita in trincea per questi animali, è cercare di diffondere una visione diversa, una relazione diversa con gli animali, con gli altri animali, cioè in cui sono veramente dei soggetti, oltre a essere chiaramente degli esseri senzienti, ma sono dei soggetti volitivi, cioè soggetti che vogliono vivere innanzitutto, vogliono condurre una vita libera, quindi libera di giocare, di mangiare, di intessere relazioni, perché poi loro, se tu li vedi, ci sono amicizie, inimicizie, sì, sì, si vede benissimo. Come nella nostra comunità, esatto, umana, esattamente allo stesso modo. E se tu dai loro la possibilità di vivere così, te ne puoi rendere conto. Certo. E secondo me oggi è veramente assurdo il fatto che esista una distinzione tra l'animale d'affezione, il cane e il gatto, e l'animale cosiddetto da carne, che è una distinzione assurda, non legittimata da nulla se non da una visione specista, e sta in piedi sulla forza, sullo sfruttamento, sull'uccisione, perché lo possiamo fare e quindi lo si fa. Il Rifugio Miletta è un'associazione no profit di volontariato e si trova ad Agrate Conturbia, in provincia di Novara. Per visite, adozioni anche a distanza, volontariato e qualsiasi altra forma di aiuto, informazioni sul sito internet www.rifugiomiletta.org. Esiste un luogo in noi dove secoli di pregiudizi hanno seppellito la compassione, si legge nella homepage, ma qui, a Rifugio Miletta, è il luogo dove possiamo dissotterrarla. Roberta Marino, inviata ad Agrate Conturbia per Restiamo Animali. Interviste, attualità. Siamo al telefono con Thomas Hertel, il nostro corrispondente dalla Germania, per la precisione da Lipsia. Ciao Thomas. Ciao Camilla. Siamo con lui a commentare quello che è accaduto durante queste elezioni europee in Germania, dove un partito esplicitamente animalista, radicale, è riuscito a piazzare un deputato al Parlamento europeo. Si tratta del Partei Umweltmensch Tierschutz, non so se l'ho pronunciato bene, Thomas, tu che ne dici? Sì, perfetto. Che ha preso l'1,2% in Germania e con questo risultato ha eletto al Parlamento europeo Stefan Bernhard Eck. Giusto. Thomas, cosa ne pensi di questo avvenimento? Va detto, questo partito è un partito piccolo in Germania e per questo nel passato si notava non tanto, perché naturalmente nel media sono presenti partiti grandi, la SPD, anche i Verdi ormai, no? E forse nel futuro si cambia un po', perché hanno vinto per la prima volta una sede nel Parlamento con questo signor Eck, che va a Bruxelles a essere presente per il partito Mensch, Umwelt, Tierschutz. Che cosa significa il nome di questo partito esattamente? Sì, questo è veramente interessante perché il nome direi che non è scelto per caso. Mensch, Umwelt, Tierschutz, quindi umanità, ambiente, protezione per animale. In questo ordine si può creare l'abbreviazione MUT, che è anche una parola in tedesco, Mut, che significa coraggio. E indubbiamente portare l'argomento animalista in politica è un gesto coraggioso. E sì, sicuramente. Mi pare che anche i Verdi non lo mettano proprio in prima fila questo argomento. Naturalmente anche per i Verdi uno dei temi più importanti, ma i Verdi non hanno il focus così specialmente a questo tema perché hanno anche altri temi ormai, erano nel governo ad esempio, e il tema, gli argomenti dei Verdi sono un po' più ampi rispetto a questo partito piccolo. Secondo te, Thomas, questo partito è un partito di destra o di sinistra? Sicuramente non di destra, direi più di sinistra, anche se ad esempio sul sito del partito non si legge che c'è proprio un'ideologia della sinistra, però visto gli argomenti che la protezione dell'ambiente, inoltre hanno argomenti sociali, quindi si può mettere un po' a sinistra questo partito. Entrerà nel Parlamento europeo una persona, sicuramente i media si occuperanno di lui, si chiama Stefan Bernhard Eck. Che cosa hai saputo di lui? Lui è da qualche anno nel partito e dal 2007 anche uno dei presidenti del partito. Addirittura hanno tre presidenti, quindi è un partito della democrazia di base. Il partito ha 1000 membri. In questa persona specialmente potevo leggere che ad esempio dal 2001 già è vegano e lui ha fondato una sezione regionale nel Bundesland Saarland all'ovest, no? Al frontiere con la Francia. Non è un politico come li conosciamo dalla TV, sicuramente è un attivista, altrimenti non sarebbe in un partito di questo tipo, così piccolo, anche naturalmente si può dire che un partito più radicale, voglio dire più radicale dei Verdi, che hanno anche il tema nel programma, però questo partito qui naturalmente chiede leggi più rispettive, più forti per la protezione degli animali. È proprio un attivista nell'ambiente della protezione degli animali, questo sì, sicuramente. Ti chiediamo di continuare a tenere d'occhio questo Volentieri. Partito e questo personaggio per capire che cosa combinerà a Bruxelles, e sarà in buona compagnia perché, come saprai, in Olanda il partito per gli animali ha ottenuto il 4,2% di preferenze e quindi manderà al Parlamento europeo una donna, Anja Hazekamp, e sarà, immagino, una sua alleata per tante battaglie a favore degli animali. Sicuramente così, no? Forse fanno una coalizione insieme, no? Forse c'è anche una collaborazione naturalmente con i Verdi, no? Che hanno un po' un programma simile, no? Anche questo è possibile. Come sono andati i Verdi a queste elezioni europee? I Verdi in Germania almeno più o meno lo stesso risultato come alle ultime elezioni nel 2009, tipo 10%. Pensi che questo partito possa rubare dei voti ai Verdi? Vedremo come si sviluppa il partito, adesso che forse saranno più notati nelle medie, forse sì, qualche persona che non è contento più con il partito Verde, che ormai è un partito grande con varie correnti, no? Movimenti dentro il partito, è possibile che la gente che è più dà più attenzione alla protezione degli animali può rivolgersi forse a questo partito, è possibile, direi. www.paginevegan.it è su internet il luogo di incontro delle realtà vegane al lavoro. Si tratta di un sito internet che è uno spazio creato per dare visibilità ai professionisti che cercano di praticare l'etica animalista vegana anche oltre la vita privata. Ma su Pagine Vegan troverete di tutto: attivismo, media, aziende, servizi, professionisti, eventi, ristorazione, strutture ricettive, ma anche rifugi e shop online. Ne parliamo con una delle due fondatrici, entrambe donne, in questo caso parliamo con Ilaria Beretta. Ciao Camilla e buongiorno e buona domenica a tutti gli ascoltatori. Ilaria, raccontaci questo vostro progetto, Pagine Vegan. Pagine Vegan ha due ambizioni e si muove intrecciandoli su questi due sentieri: unire tutte le realtà vegane al lavoro, tutti i professionisti, tutte le aziende, tutti gli attivisti, tutta la cultura, e dall'altro l'idea di far entrare attraverso uno strumento facile come può essere Pagine Vegan, perché ha una mascherina, digiti, cerchi un nome, cerchi un prodotto, anche cerchi un'idea, trovi anche quella, e far entrare in tutte le famiglie italiane, anche non vegane, almeno un prodotto vegano, perché da un prodotto, da un'idea può nascere tutto un percorso di consapevolezza per aiutare i nostri amici animali. Oggi pomeriggio alle 4 siamo a Lucca Vegan Friends a presentare Pagine Vegan dal punto di vista dell'imprenditoria e del professionismo. Chi volesse venire, siamo a Palazzo Ducale, c'è tanto tutte le bancarelle del Lucca Vegan Friends, ma c'è anche il mini convegno al quale partecipa anche Pagine Vegan. Questo è un appuntamento a poche ore, chi fosse in viaggio o in zona può venirci a trovare e farsi riconoscere. Il vostro progetto ha qualche cosa di diverso. Innanzitutto è proprio stato ideato, mi sembra, da professionisti che volevano finalmente esprimere la loro scelta etica anche all'interno del loro lavoro. Dora Greco e io siamo due professioniste, ma con due professionalità totalmente diverse. Dora Greco è architetto e designer, io sono un'esperta di comunicazione e autrice radiotelevisiva. Unendo le nostre forze vegane, abbiamo pensato di mettere in piedi qualcosa che potesse raccogliere tutto il mondo al lavoro. Una persona arriva su Pagine Vegan e ci vede tutti al lavoro, ci vede tutti impegnati. Dato che i vegani in Italia stanno aumentando di numero, ma noi tutti penso vorremmo che fossero sempre di più, l'idea di far vedere anche quanti siamo e che qualità di lavoro possiamo portare avanti è il nostro orgoglio. Dall'alimentari al ballerino, dal commercialista al ristorante, se non sbaglio attraverso la vostra directory nel vostro contenitore Pagine Vegan, come succede con Pagine Bianche, è possibile trovare i professionisti, gli interlocutori con i quali interfacciarsi. Volete incrementare, diciamo così, alimentare una economia cruelty free vegan? Ci sono famiglie, persone vegane che da anni fanno scelte vegane, ma ci sono anche famiglie e persone che semplicemente non pensano che ci siano prodotti no cruelty, che sono molto belli, che sono di qualità, che magari costano anche meno degli altri. Questo per parlare dei consumi, ma per non parlare solo di consumi e per pensare anche a un mondo più sobrio, abbiamo un attore, Federico Pastore, che fa solo spettacoli teatrali di protezione degli animali, si rivolge in parte ai bambini e in parte ai grandi. Abbiamo anche dei trimestrali come può essere Liberazioni tra i nostri iscritti, abbiamo anche la psicologa Anna Maria Manzoni, abbiamo scultrici, artiste, cantanti, musicisti. Questo per parlare di professionalità a tutto campo e di cultura. Poiché Pagine Vegan è molto grande, cioè, e vuole diventare sempre più grande, è un invito a tutte le persone che fanno cultura vegana a iscriversi. L'iscrizione è gratuita per chi è impegnato nell'attivismo e nella cultura per gli animali, e quindi il fatto di essere tutti e di essere tutti facilmente trovabili da tutti è un passo ulteriore per diffondere. Può anche sembrare un paradosso, ma l'agricoltura è una specie di infinito tormento per gli animalisti, per chi segue un'alimentazione vegana. È un tormento da un lato perché gli animali in agricoltura sono sempre stati sfruttati, che siano stati usati per il lavoro oppure che siano stati inseriti negli allevamenti annessi alle aziende agricole. E poi è un tormento perché anche la produzione di vegetali, che si tratti di ortaggi, di cereali, di frutta, implica quantomeno l'utilizzo di letame che è ottenuto da quegli stessi allevamenti nei quali gli animali fanno una fine ben nota. La domanda allora per tutti noi è questa: esiste o è almeno possibile immaginare un'agricoltura cruelty free che non faccia ricorso allo sfruttamento e alla morte degli animali? Ce lo siamo chiesti nell'incontro che abbiamo organizzato a Settignano nel ciclo dei nostri apericena. Un incontro al quale hanno partecipato alcuni ospiti molto qualificati che stanno conducendo anche esperienze di sperimentazione in campo agricolo. E per organizzarlo ci siamo avvalsi dell'aiuto di Marco Bignardi, presidente del Coordinamento Toscano dei Produttori Biologici, e di Marco Verdone, veterinario omeopata più volte ospite della nostra trasmissione, il quale ben conosce gli animali cosiddetti dal reddito e ha dato un contributo all'incontro che si è svolto come al solito alla Casa del Popolo di Settignano, particolarmente importante perché ha rimarcato un principio, e cioè il fatto che se vogliamo immaginare un mondo diverso, un'agricoltura diversa, dobbiamo escludere in toto lo sfruttamento degli animali. Dobbiamo cioè considerare che nella società dell'antispecismo, se mai ci sarà, gli animali cosiddetti da reddito, e cioè i maiali, i bovini, i conigli, le galline che oggi conosciamo, semplicemente non ci saranno. Non ci saranno perché li abbiamo creati noi, per le nostre esigenze alimentari e di lavoro. In quella società ci saranno piuttosto i cugini, i parenti, gli antenati di questi animali, e quindi i cinghiali, i bovini liberi, le lepri, quei galli che frequentano ancora boschi e foreste. L'incontro sull'agricoltura è stato sicuramente nei suoi esiti ricco di contraddizioni, ma anche di spunti. Di spunti che ci portano anche verso una prospettiva che a noi pare interessante. Di che cosa abbiamo parlato? Con Carlo Brivio di omeodinamica, con Franco Pedrini di biodinamica, due discipline che discendono entrambe dalle idee del filosofo Steiner, e quindi l'idea che l'azienda sia un organismo vivente, che il cibo debba avere una sua vitalità e che quindi tutte le risorse debbano essere tratte dal terreno e dal lavoro e anche dalla spiritualità di chi lo abita. In queste aziende la chimica ovviamente è bandita, non si introducono concimi esterni, il ruolo degli animali è quello di contribuire con il loro lavoro a rendere fertile il terreno. Carlo Brivio ha spiegato di essere anche vegetariano e che i cavalli, le capre, gli animali da cortile che lui tiene non sono mai destinati al macello, anche se è costretto evidentemente a cedere quelli, tra virgolette, in eccesso, i cuccioli delle varie specie. Lui non li vende ai macelli, ma è possibile, se non probabile, forse addirittura certo, che larga parte di questi individui finiscano poi proprio al macello attraverso i vari passaggi di mano. Franco Pedrini ci ha detto che alcune delle aziende biodinamiche esistenti in Italia, in tutto circa 400, sono condotte da persone che hanno fatto la scelta vegetariana e vegana e cercano di applicarla anche al lavoro agricolo. E tuttavia al momento, nella biodinamica, nell'omeodinamica, hanno davvero risolto la questione animale. Sotto questo profilo più interessante è la prospettiva che ci ha suggerito Eva Eisenreich, che fa parte dell'Associazione Permacultura di Firenze. Eva ci ha parlato di due sperimentazioni. La prima è il metodo Manenti, realizzato da un agricoltore che è partito da una semplice osservazione, cioè dal fatto che tutti i batteri, i microrganismi che rendono vitale un terreno si concentrano attorno alle radici delle piante e che quindi non ha senso, come invece normalmente si fa, rivoltare il terreno ed estirpare quelle radici. Manenti quindi lascia le radici nel terreno. Il terreno non è mai nudo, è sempre coperto. In questo modo è in grado di rigenerarsi senza letamazioni, senza interventi esterni. Questa azienda da molti anni opera e vive ed è sul mercato. E quindi è una sperimentazione sicuramente da imitare. L'altra prospettiva suggerita da Eva ci porta addirittura in Amazzonia e nasce dall'osservazione dell'agricoltura antica, che non usava animali, che non usava particolari strumenti e che faceva tesoro della capacità del terreno di rigenerarsi. Tutto questo grazie all'azione delle cosiddette micorizze, dei piccoli organismi, dei funghi che agiscono sottoterra e che consentono la rigenerazione del terreno. Questa tecnica, chiamata delle terre nere, secondo Eva, nella nostra parte di mondo è particolarmente utile per la rigenerazione di terreni che siano stati sottratti all'agricoltura e che quindi si siano in qualche modo isteriliti. In entrambi i casi, evidentemente, si tratta di prospettive che considerano la questione animale, che escludono gli animali da un ruolo chiave nella produzione vegetale e si uniscono forse alla tecnica dell'agricoltura sinergica, della quale a Settignano non abbiamo parlato, ma che è ben conosciuta, discende dalle idee del giapponese Fukuoka ed esclude anch'essa l'apporto di concimi esterni di origine animale. Eva ha osservato che l'agricoltura industriale, quella che abbiamo oggi sotto gli occhi e che sembra uno standard, in realtà è una piccola parte della storia dell'agricoltura. e quindi è possibile immaginare qualcosa di diverso. Ecco, questo è forse l'esito più importante del nostro incontro. Abbiamo capito che vale la pena immaginare qualcosa che oggi sembra impensabile per il semplice fatto che la storia dei viventi e delle società umane è in continua evoluzione, non è mai scritta l'ultima parola. Quindi un'altra agricoltura è possibile, un'agricoltura cruelty free è pensabile. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Il problema degli animali non è possono ragionare né possono parlare, ma possono soffrire. Così teorizzava il filosofo Jeremy Bentham alla fine del XVIII secolo, creando i presupposti del movimento dapprima animalista e ora antispecista. Molto tempo dopo, nel 1983, un altro filosofo, Tom Regan, arriva a riconoscere non solo la sensibilità e la capacità di soffrire gli animali, ma anche i loro diritti. Ma cosa succede se si arriva ad affermare il riconoscimento dell'emotività animale? Cosa può significare questo passaggio, in particolare per gli animali d'allevamento? Ecco cosa ha risposto ai nostri microfoni Alma Massaro, ricercatrice all'Università di Genova, presidente e cofondatrice di Minding Animals Italia e curatrice del libro Emotività Animali, Ricerche e Disciplina a Confronto, presentato il 22 maggio a Milano. Sentiamola. È un po' schizofrenico il riconoscimento dell'emotività animale, nel senso che c'è tanto facile riconoscerla nei pet, quindi nel cane, nel gatto, nel coniglio, è molto più difficile ammettere che la mucca, la gallina, il maiale sono emotivi tanto quanto lo può essere il nostro pet, perché probabilmente la società non ha vantaggio a dimostrare che la mucca soffre quando un vitellino gli viene separato dopo 24 ore dal parto, quando invece è molto più semplice dire al mio cane è terrorizzato quando va dal veterinario. Quindi è un po' una visione schizofrenica. C'è da dire che c'è stato un cambiamento radicale, per quanto mi è dato sapere, negli ultimi anni, nel senso che finalmente si è iniziata a discutere anche di emotività all'interno degli animali considerati da allevamento impropriamente, però ecco, che ancora oggi sono definiti in questo senso. Quindi direi siamo in un momento di svolta, la svolta forse è già iniziata, però ecco, è un cammino che abbiamo intrapreso e si discute molto a livello teorico su quello che deve essere l'antispecismo, aspecismo, ma si, come dire, tentenna ancora l'introdurre concetti come emotività animali e per giunta la filosofia animalista, la filosofia relativa alla questione animale è separata completamente da quella che è invece la filosofia classica, quindi diciamo la bioetica è in questa fascia di mezzo e i bioeticisti o si occupano soltanto di esseri umani, quindi le questioni relative agli ospedali, fine vita, eccetera, aborto, oppure si occupano solo di animali, quindi ci sarebbe bisogno proprio di questo ponte, di questa integrazione che devo dire forse è quello scacco che ancora manca, ma sicuramente nei prossimi anni saremo in grado di vedere. Alma Massaro è solo una delle curatrici del libro, insieme a lei anche la professoressa Silvana Castignone, già autrice di molti testi su tematiche animaliste come Povere Bestie e il più recente La Questione Animale del 2012, e Matteo Andreozzi, autore di svariati saggi e articoli filosofici, quali ad esempio Etiche dell'ambiente, Voci e prospettive. A lui abbiamo chiesto di spiegarci meglio il contenuto e il significato di questo libro, che raccoglie i saggi di diversi autori. Il testo deriva da un incontro che c'è stato tra più studiosi accademici e attivisti impegnati nel contesto dell'etica animalista, un incontro che c'è stato nel 2012 a Genova durante una conferenza. In quella circostanza, una conferenza di due giorni, ci sono state organizzate diverse sessioni di discussione su tematiche interdisciplinari legate all'etica animalista. In queste sessioni la cosa originale che è stata proposta in questa conferenza, organizzata soprattutto grazie alla dottoressa Alma Massaro, che poi è diventata una delle curatrici del libro, è stata quella proprio di unire ricercatori più giovani, magari anche inesperti, ma molto coinvolti nella tematica animalista, insieme a ricerche da parte di attivisti o di studiosi sul campo che fanno proprio dei case studies sul regno animale, sulle relazioni tra esseri umani e animali non umani, e accademici più affermati. In quel contesto ci siamo soffermati poi alla fine della conferenza cena a discutere assieme su quanto sarebbe stato in realtà interessante e utile cercare di creare un filo conduttore comune tra tutti gli interventi che ci sono stati, o se non altro tra quelli più significativi e interessanti, e cercare di proporre una pubblicazione che cercasse di raccontare una storia anche in più sezioni. In questo senso nasce il libro, che poi è stato curato da me, da Alma Massaro e dalla professoressa Castignone. Ci siamo concentrati su 7 sezioni. La prima, quella introduttiva, si interessa principalmente del tema del diritto. Dal diritto siamo passati poi alla seconda sezione, che è una sezione prettamente politica, in cui si nota proprio l'intersezione tra temi politici legati al regno animale e all'interazione tra esseri umani e animali non umani e l'attivismo vero e proprio. A fare da ponte tra politica e attivismo c'è cioè la terza sezione, perché è una sezione prettamente filosofica, si occupa di filosofia, ed è qui che si inserisce il mio saggio, che è Adorabili Bestie, analisi di un dilemma etico ancora irrisolto, in cui cerco di approfondire il problema etico del nostro rapporto con gli animali domestici, domesticati, e soprattutto con i pet in generale. Dopo i contributi filosofici c'è una ulteriore sezione che tratta principalmente di etologia, una sezione sulla psicologia, un'altra sulla religione e infine una sezione che contiene 4 saggi, la sezione denominata studi e ricerche. Emotività animali, ricerche e disciplina a confronto, a cura di Matteo Andreozzi, Silvana Castignone, Alma Massaro, prefazione di Mark Beckhoff, 274 pagine al costo di 30 euro, edito da LED Edizioni Universitarie. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Solitamente siamo abituati a mangiare i cetrioli in pinsimonio, a fette in insalata o in una fresca panzanella, tritati in uno tzatziki magari, ma comunque crudi. Oggi invece vi propongo una variante per un contorno gustoso e originale. I cetrioli stufati allo zenzero e sesamo. Le dosi per 4 persone sono 400 g di cetrioli, 100 g di scalogno, dell'olio extravergine di oliva, il succo di un limone, mezzo bicchiere di vino bianco, un cucchiaio di radice di zenzero fresco grattugiata, un cucchiaio di semi di sesamo, un ciuffetto di aneto, sale e pepe. Sbucciate i cetrioli e tagliateli a quadretti di circa un centimetro. Tagliate lo scalogno a fettine e scottatelo in poca acqua. Quando questa sarà evaporata, aggiungete dell'olio extravergine di oliva e fate rosolare per 5 minuti. Unite il sesamo e fatelo tostare per pochi minuti. Quindi aggiungete i cetrioli e la radice di zenzero grattugiata e lasciate cuocere ancora 5 minuti. Bagnate col succo di limone e il vino bianco e lasciate cuocere a fuoco molto lento fino a quando una parte dei cetrioli si sarà trasformata in una crema insieme al vino e al succo di limone, mentre un'altra parte rimarrà a quadrettini. A questo punto il nostro contorno è pronto, servitelo con un ciuffetto di aneto tritato finemente e qualche seme di sesamo tostato. Il maltrattamento degli animali continua a far discutere in seguito alla recente investigazione di Animal Equality sulle terribili azioni alle quali vengono sottoposti i conigli in allevamenti e macelli spagnoli. Attivisti si sono inseriti sotto copertura e hanno documentato cosa succede realmente, mettendo in luce le torture a cui gli animali vengono sottoposti quotidianamente. Secondo l'associazione non si tratterebbe di casi isolati e per questo dovrebbero essere presi dei seri provvedimenti per evitare altri scandali di questo genere. Gli attivisti hanno girato numerosi video all'interno di 70 allevamenti e di 4 macelli in 14 differenti regioni del paese. I filmati sono delle vere e proprie testimonianze di tutto ciò che succede all'interno di questi luoghi, alcuni dei quali avrebbero anche ottenuto dei riconoscimenti per la qualità dei prodotti, leggi, pezzi di cadaveri. Animal Equality ha deciso di avviare una petizione, attiva anche in Italia, per far pressione sulle autorità spagnole affinché vengano presi seri provvedimenti legali. Nel nostro paese la situazione non è certo migliore. L'Italia è il primo produttore di carne di coniglio nel nostro continente, dal momento che detiene il 54% della produzione del settore. In Italia sono presenti circa 2.000 allevamenti di dimensioni notevoli, oltre a numerosi altri piccoli produttori. Madrid. Corrida sospesa perché hanno vinto i tori. È accaduto nei giorni scorsi nella Plaza de Toros, nel 12° combattimento delle festività di Sant'Isidro. La corrida è stata sospesa dopo che sono stati incornati e feriti 3 toreri nel programma dei combattimenti, per cui nessuno di loro è potuto tornare nell'arena per continuare la lidia. È purtroppo solo la terza volta nella storia della festa di San Isidro che si cancella una corrida per la supremazia dei tori. L'ultima volta era accaduto soltanto 35 anni fa. Il primo torero a cadere è stato raggiunto da una forte cornata alla gamba sinistra e una al ventre. Nel secondo combattimento il torero è stato raggiunto da una cornata al ginocchio con rottura del legamento, ai, che l'ha costretto a essere soccorso in infermeria. Lo stesso toro ha incornato il terzo matador, che è stato colpito alla gamba destra e soccorso in ospedale. Per cui è l'autorità di Plaza de Toros, insieme a quelle sanitarie, non è rimasto che dichiarare sospeso il combattimento per KO dei toreri e la vittoria del toro. Olè! Firenze. Arriva anche a Firenze il servizio di ambulanza veterinaria, che entrerà in servizio dal prossimo 7 giugno. Nella stessa giornata si terrà il corso di formazione per il soccorso animali, organizzato dall'Associazione Guida Verde SOS Animali Onlus, in collaborazione con la Federazione Veterinaria Italiana. Proprio l'associazione, che con l'obiettivo di garantire la massima efficienza e sicurezza nel soccorso, ha istituito il numero per le emergenze 345 92 39 777, attivo in tutta Italia e per ora in funzione dalle 14 alle 7 del mattino. È in corso la Settimana Mondiale contro la Carne. Le Settimane Mondiali per l'abolizione della carne hanno come scopo la promozione del dibattito politico intorno all'idea di abolire e condannare la produzione e il consumo di carne di esseri senzienti. In tutto il mondo 6 milioni di animali terrestri vengono uccisi ogni ora a scopo alimentare. Il numero degli animali acquatici uccisi è anche più elevato. Speriamo che questa iniziativa rinforzi il movimento per i diritti degli animali nel corso degli anni a venire. Molte le iniziative in tutta Italia. Restate sintonizzati. È stata catturata dopo una breve fuga la tigre fuggita dal circo Lidia Togni, in questi giorni a San Giuseppe Vesuviano. Si era allontanata di circa 3-4 km. È stata poi catturata dagli agenti di polizia e dal personale del circo. È stato sedato e rimesso in gabbia. Ricordiamo che questo è il quinto caso di fuga in un anno e mezzo. La prima a scappare è stata una giraffa, poi morta a seguito dell'anestesia. E noi speriamo che il suo ultimo pensiero sia stata la breve libertà conquistata. Poi 2 elefanti a Roma a distanza di un mese l'uno dall'altro. E infine 2 zebre. Un po' troppi casi per pensare a casualità. Il reiterarsi di tali episodi fa sorgere qualche dubbio sulla capacità dei circensi di prendersi cura degli animali detenuti nei loro tendoni. Oltre 1000 i cani stipati in luoghi che ne dovrebbero ospitare neanche la metà. Chiusi in spazi angusti, senza luce né aria, ammucchiati in branchi di più di 40 animali. Incattiviti dalla fame, denutriti, magri da fare pietà, malati senza acqua né cibo. A questo si sono trovati davanti i volontari dell'Altra Zampa a Catania. Una storia andata avanti per più di 30 anni fra connivenze, superficialità, mancanza di controlli. Una situazione dovuta al fatto che per il titolare i cani non erano altro che titoli di reddito che invece di essere di carta erano di pelo. Speriamo che dal sequestro segua una vita più dignitosa per i poveri cani e siamo certi non sarà difficile. Passiamo alle buone notizie. È in corso la 3 giorni Lucca Vegan Friends, una 3 giorni intensissima sul vegan a 360 gradi. Fra gli eventi da non perdere, ricordiamo oggi pomeriggio il cappuccetto rosso animalista, personaggio che si schiera dalla parte dei più deboli. Reagisce al cacciatore che minaccia gli amici animali. Crea un vero e proprio comitato che, unito, riuscirà finalmente a scacciare il cattivo, il cacciatore, offrendo un originale lieto fine alla fiaba. Noi di Restiamo Animali ci sacrificheremo e andremo a raccogliere informazioni, news, novità e anche qualche buon manicaretto. È un brutto lavoro, è un terribile lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. E invece il prossimo fine settimana si terrà il Parma Etica Festival, un evento unico per promuovere uno stile di vita etico rispettoso di tutte le forme viventi. Si tratta di una 3 giorni in cui sono proposte 3 tematiche diverse con dibattiti, workshop e laboratori gratuiti. Saranno presenti stand al 100% vegetali, ecosostenibili e cruelty free. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.